Esdra. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, allo scopo di realizzare la parola del Signore, pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale diffuse un proclama in tutto il suo regno, anche per iscritto, annunciando: «Così dice il re di Persia, Ciro, il Signore Dio del cielo mi ha consegnato tutti i regni della terra e mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, in Giuda. Chi tra voi appartiene al suo popolo? Il suo Dio sia con lui. Salga pure a Gerusalemme, in Giuda, e costruisca la casa del Signore Dio d'Israele, Dio che è in Gerusalemme. Tutto il resto del popolo, in tutti i luoghi dove esso dimora, gli abitanti della località lo forniscano d'argento, d'oro, di beni e di bestiame, di offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme». Allora i capi famiglia di Giuda e Beniamino, i sacerdoti e i leviti, assieme a tutti coloro ai quali Dio aveva ridestato lo spirito, si levarono per andare a costruire la casa del Signore a Gerusalemme. Tutti i circonvicini riprovvidero con le loro mani di oggetti d'argento, d'oro, di beni, di bestiame e di cose preziose in quantità, oltre a tutte le offerte volontarie. Il re Ciro trasse fuori le suppellettili della casa del Signore che Nabucodonosor aveva portato via da Gerusalemme e aveva collocate nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, le fece prelevare per mezzo di Mitridate, il tesoriere, e le consegnò contate a Sesbassar, principe di Giuda. Questo è il loro computo: 30 bacinelle d'oro, 1000 bacinelle d'argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe d'argento di secondo ordine, 1000 altre suppellettili. Le suppellettili d'oro ed argento erano tutte insieme 5.400. Sesbassar le riportò tutte da Babilonia a Gerusalemme, quando gli esuli furono ricondotti.